ragazzo solitario, ha una faccia da ribelle, parla poco e non sorride mai. È cresciuto per la strada, nel recinto di un quartiere che confina con la libertà. Figlio di un destino assurdo e di una storia disonesta, a una scuola non c'è andato mai. Con la legge del più furbo e tanti desideri in testa, basta poco a mettersi nei guai. Il ragazzo solitario sogna sempre una stazione con un treno che lo porti via. La speranza nei suoi occhi segna già una direzione sull'asfalto di periferia. Per lasciare la sfortuna e i giorni da dimenticare, corre fino a non poterne più. Ma il futuro è sconosciuto per chi nasce già segnato, il domani è un giorno che non c'è. Il sole sembra un amico che muore, la rabbia affonda parole in fondo a un muro di niente, è un silenzioso dolore che esplode ma non si sente, è un gran bisogno d'amore, ma il mondo pensa per sé. Il ragazzo solitario sembra uno come tanti, il sabato davanti ai videogames, ma si sente un'astronave, senza quando e senza dove, che si è persa dentro sé. Il ragazzo solitario vive nella sua tempesta, scappa se gli chiedi che cosa hai. Il ragazzo solitario urla dietro una finestra, ma nessuno se ne accorge mai. E il sole sembra un amico che muore, la rabbia affonda parole in fondo a un muro di niente, è un silenzioso dolore che esplode ma non si sente, è un gran bisogno. Assomigliano a me.